Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Ricorderete che ieri abbiamo parlato della cava estrattiva di oltre 1 milione di metri quadrati che la provincia di Modena ha intenzione di ampliare nel comune di Castelfranco Emilia. Abbiamo avuto con noi ospite appunto l'assessore all'ambiente della provincia di Modena e il comitato che si oppone all'ampliamento di questa cava. Abbiamo sentito le ragioni degli uni e abbiamo ascoltato le motivazioni degli altri. C'è chi dice che è una zona ambientalmente da proteggere, una zona che non ha bisogno di un nuovo sfregio, e questo ovviamente lo dicono gli ambientalisti riuniti nel comitato No alle cave, e c'è invece la posizione della provincia di Modena che dice: la cava già esisteva, abbiamo fatto tutto il possibile per permetterne l'ampliamento, assicurando anche il ripristino dell'area, e questo è importantissimo. Oggi abbiamo una opinione, diciamo così, complementare, che ci permetterà di completare il ragionamento con il sindaco appunto di Castelfranco Emilia, Sergio Graziosi. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, il radioascoltatore nella mail che ci ha mandato punta il dito chiaramente contro la provincia, ma anche contro il comune. Questi due enti locali avrebbero infatti dato il via libera a questa enorme cava, questo gigantesco buco, come lo chiama il nostro radioascoltatore, senza, e qui la chiamo in causa per sentire la sua opinione, dice il nostro radioascoltatore, aver consultato il parere dei cittadini. Ed allora le do la parola. Prego. Guardi, noi abbiamo consultato i cittadini quando abbiamo saputo l'entità dello scavo e quando abbiamo saputo dall'approvazione della provincia come il PIAE veniva organizzato, PIAE che ha anche valenza di PAE. Ecco, spieghiamo bene cosa vuol dire PIAE o PAE, il perché PIAE i nostri... È il piano provinciale complessivo delle escavazioni, no? Okay. Il PAE invece è la parte comunale, perché è la parte del comune che interviene nell'escavazione. Quindi lei dice: noi abbiamo consultato i cittadini, ma non come... Noi abbiamo fatto un'assemblea pubblica, ecco, a Piumazzo, nel momento in cui abbiamo saputo esattamente la situazione come stava, anche perché per parecchio tempo non si sapeva che profondità si poteva andare a scavare. Si pensava a 10, si pensava a 15, ecco, quindi fino a quel momento non è stato possibile capire l'entità dello scavo. Ecco, quando ma... siamo... Probabilmente siamo andati anche un po' in ritardo rispetto a tutta la situazione. Andare prima a fare una consultazione senza sapere esattamente di che cosa si trattava era un discorso di carattere generale che probabilmente poteva anche essere fatto, ma che non era certamente conclusivo, insomma. Ecco, su questo posso essere effettivamente parzialmente d'accordo con lei. Lei dice giustamente: se non sapevamo prima i dettagli era inutile andarne a parlare, anche se forse la cosa era nell'aria e quindi comunque qualche livello, diciamo così, di comunicazione con i cittadini poteva in ogni caso esserci. Però le chiedo questo: quando voi avete fatto questa assemblea, ebbene, qual è stata la reazione dei suoi cittadini? Cioè, erano contenti, allegria, baldori oppure no? Estremamente negativa, nel senso che c'è stata così una sollevazione generale su questa situazione. Ne abbiamo fatte due veramente delle assemblee. La prima era illustrativa, per dire: il PAE, il progetto dell'attività estrattiva, è di questo tipo, e abbiamo chiamato anche dei tecnici perché spiegassero di che cosa si trattava. C'è stata una reazione molto negativa e lì addirittura penso che in quell'occasione sia nato il comitato No Cave di Piumazzo. Successivamente noi avevamo preso l'impegno di studiare per vedere come si poteva ridurre l'impatto, quali opere compensative venivano fatte, i vari tempi di escavazione. Quando il famoso ripascimento, insomma, diciamo. Sì. Quando ci siamo ripresentati a Piumazzo per un'assemblea pubblica che è stata affollatissima, ecco, ci è stato in pratica quasi impedito di parlare, perché la reazione dei membri del comitato, comunque dei cittadini di Piumazzo, ha fatto sì che non ci dessero la possibilità di poter spiegare alla gente su che cosa stavamo lavorando e su che cosa stavamo proponendo. Certo. Tanto più che successivamente siamo stati abbiamo voluto mandare ai cittadini di Piumazzo un foglio, un volantino, pochino dove spieghiamo le cose che abbiamo cercato di mettere in atto. Ecco, io leggo qui sui giornali del Posto, un giornale di non più tardi di 2 o 3 settimane fa, che un vostro grande concittadino, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, richiama tutti, diciamo così, al buon senso. Dice: adesso io spero che prevalga il buon senso, certo, nelle decisioni da prendere su questa immensa cava, che poi ricordiamo ai nostri radioascoltatori in realtà interesserà anche alcuni comuni limitrofi, quindi vicini a Castelfranco. Allora io le chiedo: che cosa succederà ora? Cioè, a lei piace l'idea di vedersi sventrare una parte del suo territorio? Vorrà mettersi d'accordo con i comuni vicini? Cioè, qual è la sua idea a questo punto di buon senso, come lo chiama Manfredi? Il discorso di Manfredi del buon senso lo accetto, perché Manfredi dice: no, bisogna che ne ragioniamo, che ne parliamo, non si può dire di no all'infinito su tutto e su tutto, e vediamo di ragionare. E la disponibilità del comune c'è tutta, di trattare con i cittadini, con il comitato stesso, che ho anche invitato, e quindi ci siamo anche parlati. Ecco, sai qual è il guaio vero della situazione? È che in questo enorme buco, come la chiama lei e come giustamente lo chiama così, sì, giusto per volgarizzare e far capire, no? Certo, si è scavato già da parecchi anni, non sono stati fatti, e quindi voglio dire, l'amministrazione è unica, anche se non c'ero io quel tempo, non è che dia la colpa agli altri, però certo. Il ripristino non è stato fatto, per cui c'è già questo immenso buco nel quale si scaverà ancora, e la gente naturalmente molto restia a credere che tutte le cose che stiamo promettendo per il ripristino eccetera vengano fatte, perché non sono state fatte in passato. Certo. Allora, il buon senso, io dico, mettiamoci a sedere, parliamone, vediamo anche come recuperare le cose non fatte nel passato. E so che Manfredi si riferiva anche a questo, dicendo: vabbè, abbiamo preso atto della non volontà di concedere ancora, di scavare sul territorio di Piumazzo, perché ha già dato tanto, però in effetti la ghiaia è lì, vediamo di ragionare col buon senso per vedere cosa che si può fare. E io su questa linea sono d'accordo. Quindi lei dice: andiamo avanti, va bene il piano, va bene tutto, però dobbiamo metterci d'accordo su come fare in modo che non ci sia un ulteriore sfregio al nostro territorio. Esatto, le dico anche di più, che nel lavoro che abbiamo fatto ultimamente, noi abbiamo già proposto nelle osservazioni fatte alla provincia di diminuire di 1 milione di metri cubi lo scavo, quindi riducendo il buco, chiamiamolo così, e soprattutto di accogliere le richieste dei cittadini di Piumazzo, e non solo dei cittadini di Piumazzo, ma anche gente che fa certe considerazioni di un certo tipo, di non accettare l'insediamento del frantoio come veniva proposto dal PAE. Queste sono le osservazioni che abbiamo. E quindi adesso dovete interloquire con la provincia per cercare di arrivare appunto ad una soluzione. Le chiedo questo: sì, spesso i comuni, lo sappiamo ormai, sono da anni alle prese con dei buchi di bilancio, comunque con delle ristrettezze. Per tantissimi anni i comuni hanno gridato al lupo, poi il momento in cui veramente il lupo diventava un pericolo, poi la gente non credeva più a questi gridi d'allarme da parte dei sindaci. Allora le chiedo questo: da quest'opera, diciamo così, di scavo, il vostro comune, i comuni limitrofi, ci guadagneranno qualcosa? Ci saranno degli oneri di concessione? Ci sarà qualcosa che voi poi avete già pensato come riutilizzare? Ecco, ci spieghi se c'è anche un introito per il comune. Ci sarà un introito che naturalmente non riesco a quantificare, perché dipende dall'accoglimento o meno delle osservazioni, perché meno si scava meno si prende, però l'impegno del comune di Castelfranco è che tutto ciò che entrerà nelle casse comunali da queste escavazioni venga utilizzato nel territorio di Piumazzo, nella zona vicino alla cava, sulla viabilità e su alcune opere di compensazioni che da anni nella zona lì vicino, c'è una zona che si chiama California, no? Anche se siamo a Castelfranco, perché anche lì erano state fatte delle promesse di sistemazione di viabilità, di chiusura di un canale, che non sono mai state fatte, ed erano naturalmente i posti dove passavano più camion. Quindi tutto ciò che entrerà nelle casse del comune da queste escavazioni verrà speso per Piumazzo e per sistemare opere compensative, per il ripristino, per tutte queste cose. Bene, un'ultima domanda le vorrei. Non quantificare, però, perché prego, dipende da quello che riusciremo a contrattare. Noi non abbiamo fatto nessun contratto con i cavatori, quindi è un discorso che sarà successivo quando il PAE sarà definitivamente approvato. Certo, un'ultima domanda le faccio. Lei ha detto: siamo pronti al dialogo, siamo disposti ad usare il buon senso, abbiamo fatto le nostre osservazioni alla provincia, vogliamo andare avanti con l'escavazione nel rispetto dell'ambiente. Le chiedo, visto che lei diceva che avete avuto alcune assemblee infuocate e con il comitato no alle cave, siete disposti a dialogare ovviamente nel rispetto delle regole, se è ben chiaro? Certo, io ho già parlato prima col comitato di lui, come si è costituito naturalmente si è fatto vivo, io l'ho chiamato, ci siamo parlati, naturalmente ognuno con la sua posizione, con la sua funzione. Certo. Ho detto loro chiaramente che vorrei continuare questo dialogo e questo confronto pur rispettando le loro posizioni e spero loro rispettando le nostre, però credo che anche nelle opere di compensazione, nel ripristino, se continuasse questo dialogo per cui il contributo di uno e il contributo dell'altro fanno migliorare la situazione, c'è tutta la mia disponibilità nel farlo. Bene. E le dirò anche che molto prossimamente li rinviterò qui in comune per vedere se è possibile continuare un confronto. Ho detto confronto, non è che li chiamo qui per convincere su una cosa. Certo, confronto. Certo, bene sindaco, io la ringrazio per la sua partecipazione e mi auguro per il bene di questo nostro bel paese che possa essere trovata una bella soluzione che dia modo di avere una nuova attività economica, proseguire un'attività economica per i cavatori, ma nel pieno rispetto dell'ambiente. Grazie sindaco. Questo è il mio scopo. Siamo al termine, ringrazio in regia Valeria Bernardi e in studio Laura Faggin. Vi ricordo l'indirizzo mail al quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Da Roberto Galullo una buona giornata e un risentirci a domani.